La radio? E a che serve la radio? Pronto, Harry? Un merlo? Yeah! Che? Yeah! Vola? Yeah! Yeah! Yeah! Un merlo che vola! Ragazzi! Ragazzi! Amici, non potremmo sentire un po' di radio per cambiare? Radioactive, musica e parole per una libera condivisione dei saperi.